America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Barack Obama sarà un presidente con un solo mandato. Il guanto di sfida viene da Pete Sessions, che è il presidente della Commissione Repubblicana Congressuale Nazionale, quindi un pezzo grosso del Partito Repubblicano, un deputato. Il padre, tra l'altro, William Sessions, è stato il capo dell'FBI, quindi proviene da una famiglia con un buon record di servizio. È un texano e questa sua invocazione, come avete sentito, è stata accolta da urla di gioia. Dove mi trovavo? Mi trovavo in un albergo di New York, dove un bel gruppetto di repubblicani di una certa importanza, la vera star di questo incontro era Rand Paul, senatore dei Tea Parties, un gruppetto di repubblicani, vi dicevo, che è piombato su New York per cercare di conquistare le basi politiche dello Stato e già prepararsi alle elezioni del 2012. Our bill on Wednesday that we're going to introduce will gradually go to, it's at 67 now. Eccolo, Rand Paul, direi l'uomo simbolo dei Tea Parties, il vincitore niente meno che di un seggio al Senato in Kentucky, l'uomo che è stato più vilipeso dalla sinistra durante le scorse elezioni, forse è stato il secondo in assoluto solo dopo Sarah Palin, che pure non correva, ma lo stesso era oggetto di critica, attaccato, dicevo, per le sue posizioni considerate crasse su tematiche politiche che dovrebbero così essere ormai considerate parte del patrimonio comune nazionale, ma che lui ha rimesso del tutto in discussione. Per esempio, dice, aboliamo il Ministero per la Pubblica Istruzione. Voleva farlo anche Ronald Reagan. Questa è una delle sue provocazioni più classiche. Ma nel breve estratto che vi ho fatto sentire in un'intervista che ho fatto con lui, afferma che ci sarà una proposta di legge che sarà presentata formalmente oggi. Il dibattito sulle pensioni è iniziato ieri, che sposterà gradualmente l'età pensionabile dai 67 ai 70 anni in pensione. In sé per sé sembrerebbe un'affermazione dirompente. Il fatto è che questa proposta si snoda lungo un periodo di 30 anni e dunque sembra essere un po' spuntata. Perché? Beh, perché toccare le pensioni in America è davvero molto difficile, dunque anche un uomo che ha detto che non sarebbe mai sceso a qualunque compromesso come Paul, in realtà dietro questa spavalderia cela una disponibilità al compromesso. In America si dice che le pensioni sono il terzo binario, quello centrale fra i due binari ferroviari che porta l'elettricità, chi lo tocca muore. E viene fatto di chiedersi come si comporta uno come Paul davanti a questa crisi. Paul è deciso a tagliare la spesa pubblica, a ridurre il disavanzo pubblico, ma se la crisi continua, beh, cosa farà con i suoi risparmi? Yeah, I mean, in my personal retirement I own gold stocks, I own oil stocks. I risparmi per la mia pensione, dice, ho gran parte investito in oro e in titoli petroliferi. Dunque, cose che guardano a un futuro lontano. Perché? Beh, perché dice che il paese rischia da qui ai prossimi 5 anni lo sfacelo finanziario se non si farà qualcosa al più presto. What about the government shutdown? You think, you know, March 18 I think is the second deadline. Yeah, I don't want to shut it down at all. Lo shutdown, un confronto con i democratici che potrebbe portare alla chiusura del governo. La prima scadenza era il 4 marzo, è stata superata, la prossima sarà il 18. Cosa ne pensa Rand Paul? È pronto ad andare fino in fondo in questo suo confronto con i democratici? La risposta è no, non è pronto, perché la chiusura del governo per un conflitto politico finirebbe per penalizzare i repubblicani. Perché vi parlo di questi elementi che puntano un po' al compromesso? Perché in realtà questo esponente del Tea Party ha vinto come il grande alfiere del cambiamento del Tea Party, e poi quando si arriva a Washington, quando ci si confronta con la reale battaglia politica, ecco che molte delle armi che erano state schierate poi vengono un po' spuntate. C'erano altri personaggi repubblicani a questo incontro organizzato dai Monday Meetings, è un incontro così molto privato di repubblicani, in realtà non c'erano altri italiani, sicuramente non c'erano altri giornalisti italiani, c'era Mark Mix che è il presidente del diritto nazionale al lavoro, c'era Frank Luntz che offre un decalogo da seguire religiosamente da qui al 2012. Frank Luntz è un dottore, però si diletta di politica e ha scritto questo libro di nuovo per chiamare all'appello tutti i repubblicani per conquistare più seggi qui a New York nel 2012. Un esempio di questo suo decalogo: ti ascolto elettore, oppure sei tu a decidere, non un burocrate del governo. Beh, secondo me non sono dei pensieri molto molto profondi, però evidentemente raggiungono l'obiettivo, a giudicare almeno dall'applauso che abbiamo sentito in sala. And then we need from the very first day to implement decisively the reestablishment of an American exceptionalism that recognizes that power starts with you and eventually goes to Washington when necessary. Power does not start in Washington with a bunch of judges and bureaucrats dictating to you what you do. Dobbiamo recuperare l'eccezionalismo americano. Chi parla è Newt Gingrich, ex capo della maggioranza repubblicana alla Camera, se ne andò poi dopo la battaglia sul caso Monica Lewinsky con Bill Clinton, oggi ha 67 anni e si candiderà quasi sicuramente per la corsa presidenziale, perché in parallelo a quel che succedeva a New York, dove i candidati si preoccupavano di mobilitare la base politica per così recuperare sul fronte del Congresso, ieri in Iowa, a Waukee, un paesino di questo stato dove ci sono le prime elezioni nelle primarie, beh, si sono trovati alcuni candidati possibili repubblicani: Charlie Romer, 67 anni, Tim Pawlenty, 51 anni, Rick Santorum, 52 anni. Non c'erano ancora Donald Trump, che morde il freno come candidato da cronaca rosa, diciamo così, un po' fuori o sopra le righe, e non c'era Mitt Romney, soprattutto il più accreditato per ora fra i candidati, che vuole tenersi fuori dalla massa. Comunque sia, le elezioni sembrano appena finite, sono finite a novembre, ma come vedete la campagna elettorale in America non finisce mai. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Neil Young, il grandissimo Neil Young, grande cantante d'altri tempi, ha annunciato un prossimo tour da solista in 10 città americane. Questo tour partirà fra poco, fra un mesetto, il 15 aprile, a Durham, nella Carolina del Nord. Dunque a Neil Young dedichiamo la canzone del giorno, Down by the River. Down by the river, I shall not labor. Down by the river, New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.